dici cosa c'è che non va. Pensi ancora a quella storia là, lo so già, si fa. Ci vuole solo un po' di senso pratico.